La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Quante pistole ci sono in Italia? Quanti fucili da guerra? Quante armi d'assalto? Quanto gli italiani amano le armi da fuoco? Questo me lo sono più volte chiesto perché ho un atteggiamento non pregiudizievole nei confronti delle armi da fuoco, anzi sono oggetti che hanno un loro fascino, una loro attrattiva, anche se sono obiettivamente strumenti di morte, ma dal punto di vista ingegneristico dell'oggetto in sé sono oggetti fascinosi, ma grazie, le armi hanno sempre attirato, sono simboli profondi, rappresentano nostre inquietudini nascoste. Però tornando ai fatti e all'attualità, è interessante capire che di fronte all'insicurezza, di fronte al desiderio di tutela, di fronte alle parole di passo che portano le nostre città, le nostre strade, le nostre case isolate in campagna come luoghi appetibili per bande di malavitosi organizzati, gli italiani sono corsi ai ripari, o in parte ricorrono ai ripari e si armano. Quello che mi è stato secondo me utile sottolineare è che avere un'arma non significa avere una certezza di difesa, avere un'arma non significa che quest'arma noi la possiamo usare in maniera efficace. Avere un'arma molte volte è molto più pericoloso che non averla, soprattutto in certe condizioni critiche. Forse vale la pena, nella torrida estate, di ricordare e rinverdire anche questi concetti. Sono sconvolto, mi dispiace moltissimo per quello che è successo. Queste le prime parole dette all'imprenditore di 47 anni che questa mattina all'alba ha sparato ad un ladro che si era introdotto nella sua abitazione di Fucecchio in provincia di Firenze e lo ha ucciso. Il proprietario della villa si era svegliato poco prima delle 5 sentendo dei rumori e dalle prime ricostruzioni, quando ha visto la porta della camera dove dormiva aprirsi, ha preso la pistola e ha scaricato sul ladro tutti i colpi del caricatore. Noi vogliamo questa mattina riportare a una realtà nazionale un parlare ampio che si è fatto sul rapporto tra numero di armi che si vendono, che si acquistano, facilità nell'acquistare armi e numero di delitti. In particolare avete ascoltato una scheda che tratta di episodi in cui il proprietario di un'abitazione, di un negozio, di un esercizio commerciale si è difeso armi in mano da degli aggressori. Il fenomeno delle aggressioni nelle ville, nelle case, delle rapine è molto diffuso. Qualcuno lecitamente è armato per difendere la propria casa, le proprie proprietà, le fattispecie particolari del proprio lavoro, vuoi è un gioielliere, un portavalori e via dicendo, e usa l'arma che ha in dotazione, che ha regolarmente denunciato, usato e si immagina che sappia anche usare, per difendersi e in molti casi uccide l'aggressore. Esiste un più vasto dibattito sul fatto che, ad esempio, negli Stati Uniti, dove esiste il secondo emendamento che autorizza per antica e molto sentita tradizione americana qualsiasi cittadino ad avere il diritto di avere un'arma, si registra spesso il fenomeno di una persona che improvvisamente impazzisce, improvvisamente perde il controllo delle proprie azioni, prende l'arma che si trova in casa, vuoi un fucile mitragliatore, vuoi una pistola, vuoi una serie di ordigni che in molti stati sono liberamente acquistabili, e fa una strage. Ma esiste realmente un rapporto fra la facilità di potersi provvedere a un'arma in maniera regolare, non passando attraverso i canali naturalmente del commercio illecito di armi, come qualsiasi cittadino, e l'uso sconsiderato di un'arma? E in secondo luogo, vorrei fare una domanda molto diretta. Vi sentireste meglio, più sicuri, più tranquilli con una pistola in tasca? Avete già una pistola in tasca? Ce l'avete? Come pensate di usarla al momento, all'occorrenza? Quante volte al giorno la toccate? Ve la sentite se è lì al suo posto? Quante volte la pulite? La sera la scaricate, la mattina la ricaricate? Perché ve la portate dietro? Non ho nessun tipo di pregiudizio, né censoro nei confronti dell'uso delle armi, che sono sinonimo di violenza o di mancanze di sicurezza in sé, o addirittura estensione del proprio terrore di ansia di prestazione. E nemmeno voglio dire che realtà l'arma è una cosa fantastica, bellissima, un uomo senza una pistola non può essere considerato un uomo. Voglio semplicemente capire qual è il polso del nostro paese rispetto al possesso e al probabile uso di un'arma, in maniera lecita, in maniera autorizzata, in maniera assolutamente volontaria. 800240024. Una pistola puntata addosso nel cuore della notte, fin dentro casa, a pochi centimetri tra la vita e la morte. Secondi di terrore e il dubbio disperato su come andrà a finire. Ma se la mano che tiene la pistola non fosse quella del ladro o dell'aggressore, ma quella di chi si vede in pericolo, premere quel grilletto e sparare sarebbe o no difesa legittima della vita? E dove andrebbe marcata la linea di confine sottile e angosciante tra diritto a difendersi ed eccesso di difesa? Per molti italiani la partita a mano armata si gioca proprio su questa frontiera. Questo era un servizio tratto da Uno Mattina, quindi un programma mattutino della rete generalista, della rete per persone tranquille, per casalinghe, per anziani. Tocca il problema del possesso dell'arma, lo fa con toni a volte enfatici, melodrammatici, ma in realtà non è che sia poi a livello attuale della nostra civilizzazione qualcosa perfettamente banale avere un'arma in casa. Chi ha come me un cinquantina d'anni viene da un'altra generazione, la generazione dei genitori che avevano fatto la guerra. Da qualunque parte l'avessero fatta, comunque il ricordo nostalgico di aver usato le armi o per difendere la patria o per difendere la loro ideologia, secondo dal punto di vista in cui si ponevano, faccia sì che in molte case ci fossero delle armi o denunciate o ancora residui bellici nascosti sotto qualche mattonella. Però era più facile vedere negli anni 50, 60, fino ai primi anni 70, armi girare per le case, soprattutto nelle campagne, nelle province. C'era sempre un catenaccio in casa, quindi c'è una familiarità con le armi. Poi sono arrivati gli anni di piombo, sono arrivati gli anni in cui sono cominciate a riemergere queste armi. Non a caso i delitti di tipo politico erano tutti fatti con armi della Seconda Guerra Mondiale, come appunto la P-38, che era un'arma appunto tedesca usata nella Seconda Guerra Mondiale. Erano i vecchi catenacci che riemergevano dalle cantine, venivano distribuiti i dati in nome di una guerra mai finita, di una rivoluzione non completata, o in altri casi per una riscossa di una patria che aveva tradito i migliori uomini disposti a rappresentarla. Passati quegli anni, poi si è entrato in un circolo in cui sembrava che l'arma fosse relegata a ricordi nostalgici, cioè che ancora andava a caccia, che doveva ancora guardarsi però dal sospetto e dall'accusa di essere un belligerante, un facinoroso, un maniaco appassionato di armi, fino ai giorni nostri in cui ricomincia a sorgere prepotente l'idea: ma un'arma in casa serve? Mi serve un'arma? Mi sentirei più sicuro con un'arma? Se avessi un'arma la potrei usare? Beh, questa è la domanda che faccio questa mattina, vorrei sapere come sarebbe disposto a rispondermi il banale, normale ascoltatore che mi ascolta questa mattina. 800 24 0024. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ha una pistola? Sì, l'ho acquistata dopo praticamente un episodio che è successo a casa mia, dopo aver visto il terrore in faccia a mia moglie. Cosa spieghi l'episodio, mi racconti l'episodio, così cominciamo a portare il suo caso come caso esemplificativo di quello che vorrei domandare. Ma allora c'è da fare una premessa, cioè io abito in campagna e praticamente le pattuglie dei carabinieri devono venire da un paese non molto vicino, e quindi fra la chiamata e l'arrivo dei carabinieri i malviventi hanno la possibilità di poter fare quello che vogliono. È la situazione tipo che più spaventa oggi chi non abita nei centri urbani: vivere in una casa in campagna o in periferia, in una villa, e ti entrano le persone in casa. Sì, vabbè, i famosi vantaggi e svantaggi di quello che sia oggi nel vivere in campagna. Sì, questa qui è la situazione. Cosa è avvenuto a casa sua? Ma praticamente può sembrare una sciocchezza, però poi dopo uno riflette e pensa magari se le cose fossero andate avanti. È arrivata una macchina con quattro extracomunitari e al momento, all'epoca, la casa ancora non era finita, avevo praticamente un cancello fatto in legno e hanno tentato di forzare questo cancello. Con voi in casa? Io, Certo, eravamo in camera, il cancello praticamente lo vediamo direttamente dalla Quindi camera. Avete visto l'operazione, le persone stanno per entrarvi in casa? Sì, ho visto praticamente, non allora ho pensato alla prima diciamo cosa di poter andare giù e fare qualcosa, poi dopo, visto che erano in quattro, ho pensato bene prima di telefonare, di fare il rumore. No, la mia moglie tentava di telefonare ma non riusciva a prendere la linea, penso anche dalla paura. Io allora ho fatto rumore dalla finestra, loro si sono accorti che eravamo svegli e poi dopo hanno un po' confabulato fra loro e se ne sono andati via. Quindi diciamo si è risolta abbastanza velocemente, però penso al fatto se loro avessero continuato, a quel punto andava preso delle decisioni. Ecco, allora lei da quel punto, il giorno dopo, poco tempo dopo, è andata a comprarsi una pistola? No, allora non funziona proprio così semplicemente, non ci accomuniamo alla media perché non è così semplice, era quello che volevo dire. Cioè, qui c'è una procedura ben definita, è molto, molto difficile prendere una pistola. Io ho avuto la strada un po' spianata, diciamo, sì, perché ho fatto il militare, avevo già quindi la prova di tiro, avendo la fedina penale completamente immacolata, ci è voluto un po' di tempo e sono riuscito a prendere un porto d'armi per uso sportivo. Ma questo va detto, il porto d'armi per uso sportivo dà la possibilità di avere la pistola in casa e di fare un tracciato per arrivare al poligono, non dà altre possibilità. Quindi al momento io possiedo la pistola. Ma che pistola si è comprato? Io ho preso una Beretta, una calibro 9F21 che praticamente utilizzo al poligono, lì anzi mi dà un po' di divertimento, vado così. Non è propriamente un'arma da tiro comunque? È un'arma da difesa personale perché un'arma da tiro come posso dire, da tiro sportivo sono altri tipi di arma. La 9x21 è praticamente un'arma che viene utilizzata anche per corto raggio. È un'arma da difesa personale, è una pistola difesa personale. Lei ha usato un sistema un po', diciamo, lei in realtà voleva un'arma da difesa personale, ha preso una licenza da tiro sportivo, si è preso una pistola difesa. E come pensa di usarla? Nel caso si riverificasse quell'episodio, cosa farebbe? Ma senta, allora, il discorso adesso parlando così normalmente uno... Guardi, non ho intenzione di fare l'inquisitore, sono curioso veramente, voglio farlo per capire qual è lo stato d'animo generale. Il discorso è questo, nel senso... Io se l'avessi una pistola in casa nella sua situazione perlomeno sparerei in aria dalla finestra, come minimo. Questo sì, questa è la prima cosa da fare, ovviamente. Cioè, la prima cosa da fare... Dopo aver telefonato naturalmente. Sì, no, ma l'arma deve essere utilizzata come elemento di... deterrente. Come posso dire? Deterrente, esatto. Cioè, ne fa vedere che quantomeno siamo alla pari con loro. Sì, però, aspetti un attimo. Poi c'è un esperto, ci sta ascoltando, poi ci dirà esattamente cosa diciamo di sbagliato. Le faccio un'altra ipotesi. Lei l'arma l'ha comprata da poco, va la domenica al poligono, spara contro un bersaglio fisso, con tutta la calma e la tranquillità, trova di fronte un incallito delinquente che magari viene da un paese dove le armi le ha usate in maniera intensiva e anche lui ha un'arma. Secondo lei quali sono le sue chance, tirando fuori un'arma, di sopravvivere? Ma allora, parlando in maniera sincera, perché io questa domanda me la sono posta già, dipende il, come posso dire io, la posizione che ha questa persona all'interno della casa. Se è già dentro e vicino alla camera, cioè praticamente beccandomi mentre dormo, cioè sono molto limitate le mie possibilità. Se io invece riesco, perché ho anche dei cani a casa, a sentire la persona nel momento in cui tenta l'effrazione, le mie possibilità aumentano di molto. Si fermi lì, Massimiliano, sentiamo Ferruccio. Ferruccio. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì. Guardi, abbassi la radio però, abbassi. Sì, un attimo. Io sono sulla linea del vostro ascoltatore, uguale. Cioè, il fatto è che la prima cosa che faccio, chiamo il 113 o il 112. E il fatto è che di notte, delle volte rimani lì anche 2 minuti, 3 minuti prima che loro rispondano. Ma la prima cosa che faccio è sparo in aria. 2 colpi in aria, 3 colpi in aria. Lei è armato, Ferruccio? Lei è armato a casa sua? Io sono armato, certo. Che tipo di arma ha? Ma una 9x21 anch'io. Anche lei, 9x21, è l'arma più diffusa, diciamo. Ma che modello è? Penso di sì. È una Beretta, 9x21. Ah, classica. Meglio di sì. E quindi lei, diciamo, userebbe la stessa, tiene la pistola in casa? Ma perché questi qua, questi signori che vanno a fare queste rapine, no, non si casa, sente colpa, io faccio domande, non do giudizio, sì. Lei dice, no, voglio sapere la procedura, non ci la metta procedura animo. È questa, la prima cosa che io, cioè, se io mi accorgo che loro stanno entrando in casa, la prima cosa prendo il telefono e chiamo subito il 113 o il 112, dopodiché guardo che cosa vedo, perché mi è già successo. Nel frattempo prende l'arma? Ma sicuramente. Che nel frattempo sarà stata a scarica, quindi la carica? Sì. Perché tiene l'arma carica in casa lei? No, io la sera non la carico l'arma, è chiaro che il caricatore ce l'ho lì a portata di mano, questo è chiaro. Ma ha figli in casa e vive solo? No, vivo con la mia compagna e delle volte sono anche solo, ma quello che voglio dire è... Quindi l'arma è scarica, è disarmata, però con il caricatore pronto vicino. Certo. Questa è la procedura. Ida, buongiorno. Buongiorno, io vi ascolto sempre e vi faccio i complimenti. Senta, come stavate parlando delle armi dei ladri che vengono in casa, l'è armata Ida? No, perché io quando mio papà andava a caccia, che vedevo il fucile da piccola, stavo male, avevo paura. Allora perché ha telefonato? Perché, gli voglio dire questo, io sono stata derubata 3 volte, però in quel momento, adesso con la mia età, trovandomi in quella situazione, non so cosa avrei fatto, sinceramente, perché l'ultima volta in primavera mi hanno derubato, che ero andata a trovare la figlia, vengo a casa alle 10, mi hanno portato via il televisore e tutto, e la seconda volta, cioè, sono venuti in casa di notte e ci siamo accorti alla mattina. Allora perché non si compra un'arma, Ida, visto che è disposto a usarla? Perché ho paura delle armi, ho paura, allora però le sto dicendo in quel momento, se non lo so. E beh, in quel momento, se non ce l'ha e ha paura, in quel momento nulla. Si chiude a chiave in una stanza, aspetta se ne vadano, non lo so. Però cioè, mi ritengo quasi fortunata che non mi hanno fatto niente. Va cosa bene. Vuoi che dica? Niente. Visto che ammazzano tutte sta povera gente, noi abbiamo già passato i 70 anni. Vabbè, Ida, si rassegni. Luciano. Pronto, buongiorno. Sì. Chiami solo chi ha a che fare con le armi, è inutile che mi chiama chi dice però ho paura. Questa mattina la trasmissione è su chi ha un'arma, chi vorrebbe un'arma, chi ha un'arma in casa, come la usa, come sarebbe disposto a usarla. Luciano. Certo, io ho delle armi in casa, sono un cacciatore, amante delle armi. Armi corte anche? Oltre anche armi corte, sì. 7, che armi ha? 5, quante? 2.765. 2.765. Sì, una è ereditata da mio padre e una l'ho avuta da un amico. Diciamo, uno è residuato quasi bellico allora. No, armi attuali. Oh. Beretta, quindi 7.65 attuali. Certo, io non mi passerebbe neanche per la testa. Diciamo, le pistole le tiene in ragione della licenza di caccia, le permette di tenere anche altre. Sì. Però può tenerle solo in casa, può tenerle. Sì, solo in casa. Le tiene cariche o scariche? No, assolutamente scariche. Dentro un armadio blindato, chiusa a chiave. Le armi è una cosa delicatissima, insomma, non si possono tenere. Si è mai trovato nell'idea di doverle o poterle usare a seguito di un'aggressione, un tentativo di rapina? Ma assolutamente, spero che non accada mai e che non ne abbia mai a portata di mano, perché poi la coscienza, insomma, ecco, non è... Quindi le armi corte le tiene solo per un motivo, diciamo, di affezione, perché in realtà non sono nelle condizioni di essere usate in maniera veloce. Ma assolutamente, perché... Però le tiene lì, ma le danno sicurezza, oppure le tiene come uno tiene l'orologio del papà o del nonno, ecco. Ma sinceramente a me mettono anche un po' pensiero averle in casa, ecco, mi danno un po' pensiero. Eh sì, perché se si tengono e non si usano... Ecco. Che stengono no, a fare. No, a prescindere non si sa che non si usa, ma non si sa mai come può andare a finire, ecco quello, quindi... Beh, se uno ce l'ha e si trova nella situazione, è chiaro che la usa. Grazie. Certo. Edoardo Mori, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Edoardo Mori, ex magistrato, si occupa da oltre 40 anni di armi e diritto alle armi. Ha scritto varie edizioni del Codice delle Armi e degli Esplosivi, che è una vera e propria enciclopedia giuridica sulle armi. Ha anche un sito www.earmi.it che ha 3 milioni di visitatori all'anno. Io l'ho fatta ascoltare, dottor Mori, in silenzio perché volevo avere una prima impressione di alcune tipologie. Vediamo a seguito di quello che lei ha sentito cosa c'è da correggere, cosa c'è da dire e da aggiungere. Mi sembra che il primo caso della persona che avesse un porto d'armi per uso sportivo, poi in realtà una pistola per difesa personale, forse dovrebbe organizzarsi diversamente. No, perché adesso si parla impropriamente anche nelle questure di licenza per tiro sportivo, ma è una licenza in effetti per il tiro a volo che serve soltanto a dimostrare che uno è idoneo psicologicamente e tecnicamente a maneggiare le armi, quindi consente di acquistare qualsiasi arma. Lasciamo stare la licenza per il tiro. Diciamo, è il sostituto del servizio militare che oggi non fa più nessuno, eh. No, è un sostituto, sì, anche di quello, ma è anche un sostituto del certificato medico che dimostra che uno non è impazzito. Con quello uno può andare dall'armiere e comprarsi un'arma. Ecco, se io adesso, finita questa trasmissione, volessi comprarmi una pistola, cosa dovrei fare? Lei dovrebbe andare al tirassegno, fare il corso per l'abilitazione al maneggio delle armi, andare dal medico. Se l'avessi già fatto tipo 30 anni fa, andrebbe bene lo stesso? No, adesso c'è una scadenza, dopo 10 anni di rifarlo. Allora vado al poligono, faccio il corso. Il corso, poi vado al medico di famiglia, le fa il certificato che non ha malattie mentali, non si droga, non è alcolizzato, e con quello va alla questura e dentro 90 giorni, se non ha precedenti penali, denunce, comportamenti anomali, le danno il nulla osta ad acquistare una pistola. Poi quindi se vado... vuole può richiedere anche la licenza per il tiro a volo, che è gratuita. Con la licenza e il tiro a volo, con quella pistola ci posso andare la domenica a sparare al poligono? Al poligono. Altrimenti dovrei tenerla in casa? Altrimenti si possono tenere in casa o al massimo nel giardino, sempre per ragioni di difesa. E in quale condizioni dovrei tenere l'arma a casa mia? Montata, smontata, carica, scarica? Ah, come si vuole. Quella, la sicurezza interna dipende dalle persone che ci sono. Quindi non c'è nessun regolamento? Va tenuto, no, c'è il regolamento, ma dipende dalla logica. Se c'è un bambino bisogna evitare che la prenda il bambino. Se c'è la domestica extracomunitaria bisogna evitare che questa se ne appropri. E se c'è una domestica di Frosinone è la stessa cosa? Come, scusi? Se la domestica, diciamo, è italiana è la stessa cosa? No, ma ecco, se per dire adesso emblematica la domestica che può scappare facilmente con l'arma, che c'ha già il suo milieu in cui vende. Quindi io sono responsabile anche della custodia delle armi, se la lascio... La custodia delle armi, però se uno sta solo, non c'è nessuno in casa, la può tenere tranquillamente carica sul comodino e nessuno gli può dire niente. Chiaro che se esce di casa dovrà fare in modo che un eventuale ladro che entra in casa non rubi l'arma. È questo. Quindi, per sapere... Adesso, passato dalle responsabilità, l'uso. Io lo tengo in casa carica sul comodino. Posso ogni notte andare a letto con la pistola carica sul comodino, ammesso che io abiti solo? Sì. Sì, assolutamente. Se qualcuno entra dalla finestra, posso sparargli? Se uno entra dalla finestra, sicuramente. Se uno entra a casa mia, sento dei rumori, sento delle persone dentro, ecco, casa. Bisogna prima accertare di che cosa si tratta. È chiaro che se è, potrebbe essere entrato anche un ragazzo per rubacchiare, o per bagno, perché è ubriaco, bisogna sempre accertarsi che sia prima di tutto una persona pericolosa. Ecco, però le si rende conto, qua il diritto vorrei capire esattamente il comporto. Io sento dei rumori a casa mia. A tempo che io mi accerto se è una banda di spietati assassini di villa che potrebbe fare a pezzi me e la mia famiglia, o un poveretto che magari entra per rubarsi un panino, come faccio ad accertarlo avendo l'arma in mano e allo stesso tempo tutelare con l'arma la mia famiglia? Beh, sono problemi di fatto che vanno accertati al momento, non si può stabilire delle regole generali, perché c'è una regola fondamentale: di fronte a un pericolo elevato vince chi spara per primo, o chi reagisce per primo. Se uno vuole picchiare, vince chi dà il pugno per primo. E quindi, se uno non ha tempo di pensare, prima di tutto pensa a difendersi. Se uno ha tempo di pensare, come ha detto il signore inizialmente, prima di tutto spara un colpo in aria e cerca di spaventarli. Però deve essere sicuro che ha il tempo, eventualmente, di sparare il secondo colpo. Melog, la realtà condivisa. L'arma più venduta è una pistola semiautomatica di marca Walther, modello P99. Di seguito poi vendo qualche Glock, Beretta, Smith & Wesson, Ruger e via di seguito. Una pistola media è intorno alle 700-800 euro. Qui ho una Walther P99 che si sgancia il caricatore, si inserisce il caricatore completo carico di colpi dentro, si scarrella, si fa entrare il colpo in canna e l'arma è pronta per essere usata. Questa è un'armeria, un armiere che ci spiega quali sono le pistole più vendute. Qualche ascoltatore dice: stai facendo pubblicità occulta alla Beretta, ma figuriamoci, pubblicità occulta alla Beretta. La Glock in particolare è l'arma più fighetta. Quanti se la sono comprata? Non soltanto negli Stati Uniti, è stata l'arma delle grandi stragi, ma è un'arma che ha delle caratteristiche molto moderne, di leggerezza, di affidabilità. Quindi sembra l'arma ideale per difendere casa propria. Stavo parlando questa mattina di avere una pistola, cosa fare quando si ha una pistola in tasca. Stanno arrivando tantissimi sms, ascoltatori e ascoltatrici, che mi raccontano che hanno una pistola in casa, sono pronti ad usarla. Noi questa mattina con il dottor Edoardo Mori, che è un ex magistrato esperto in armi e in diritto delle armi, cerchiamo di farvi capire i pro e contro dell'avere un'arma in casa. Paola, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io, mio marito ha un porto d'armi per difesa personale per motivi di lavoro e va spesso fuori, quindi mi trovo a dormire da sola con due bambine molto piccole. Io, il mio atteggiamento ha due armi, una 40 e una revolver, una 38 special. E una, una ne lascia sempre a casa? Sì, sì. E dunque, quando lui non c'è, io mi assicuro di mettermi la pistola vicino col colpo in canna. Quale sceglie dai due? Quella semiautomatica? Preferisco il revolver perché è più semplice. Beh, il revolver col colpo in canna è un po' difficile. Eh no, quella c'è. L'altra invece dipende quale prende mio marito, non è che la scelgo. Ma lei quale sceglie? Lei sceglie il revolver? Io preferisco il revolver perché faccio fatica a caricare. A tirare il carrello? Sì, faccio fatica. Beh, oddio, ha mai sparato col 38 special? Sì, con tutte e due. Vado ogni tanto al poligono. Però lei non ha nessuna licenza di uso di armi? No, nessuna. Quindi lei non, in teoria non dovrebbe sparare? No, non dovrei. Però se ne frega. Però la tiene lo stesso. Se io dovessi sentire che alla mia porta di notte c'è qualcuno che cerca di scassinarla, ecco, il mio atteggiamento non è, come dicevano gli ascoltatori precedenti, intervenuti in precedenza, di sparare per aria, ma è quella di sparare perché io ritengo che... Quindi vi spieghi gentilmente, Paola, la sua dinamica, diciamo, quando non c'è suo marito. Lei prende la 38 special, la carica, la mette sotto il materasso, ha detto? E me la metto vicino, molto vicino. Diciamo, è risibile forse la cosa, però me la potrei mettere, non la metto sotto il cuscino perché non amo le armi. No, anche perché è un po' duro da dormirci sopra, un revolver. Però penso che nell'ipotesi, cioè, chiaramente se... Quella tiene a portata di mano. Sì, a portata di mano, perché credo che averla dentro casa e tenerla nella scatola sopra l'armadio è inutile. Certo. Quindi, ecco, sicuramente se sparassi un colpo in canna, il potenziale, o meglio, chi cerca di introdursi in casa mia sicuramente più esperto di me, se fosse armato indubbiamente sarebbe più veloce, più agile. Le faccio un'ipotesi, sente rumori, lei i figli li tiene vicino a dormire con lei oppure? Una in una camera, una è molto piccola quindi con me e l'altra invece sta nella sua camera. Ma sente dei rumori in casa, come procede? Allora, se sono fuori dalla porta, io dormo in una stanza più vicina alla porta rispetto a mia figlia, diciamo. Quindi se sento dei rumori e se mi accorgo che qualcuno sta cercando di aprire... Cosa fa? Prima chiedo chi è, ovviamente. E la pistola nel frattempo dove sta? In la mano? La pistola ce l'ho in mano. In mano. Allora lei prende subito la pistola in mano e chiede chi è, sì. Se continuano... Eccomi, sì, prego, sì. Sono in macchina, sì. Mi perdo ogni tanto... No, voglio sapere la procedura esattamente. Ecco, la pistola è al mio fianco, diciamo, ce l'ho vicino, sul comodino, se sento dei rumori mi alzo... La prende in mano? Sono alla porta, sì, peraltro potrebbero entrare solo dalla porta perché vivo in un palazzo all'ultimo piano, quindi... O lei si mette, diciamo, in posizione di sicurezza e chiede chi è. Se continuano io sparo. E dove spara? Non in aria, perché se sparo in aria quelli si accorgono che io ho la pistola e mi sparano prima loro e sicuramente loro mi colpiscono mentre io potrei rischiare di non colpirli. Allora lei cerca subito di tirare al bersaglio, vede la persona e cerca di tirare al bersaglio. No, non la vedo, sta di là dalla porta ancora, mi auguro. Lei spara sulla porta, avendo un calibro potente come il 38 vado, special. Vado bassa sulle gambe. Perfora la porta e colpisce le gambe chi sta fuori. Colpisco, sì, tanto il postino non è di notte. Sì, beh, oddio, potrebbe essere anche un poveraccio che sta lì per magari... A fare? Beh, comunque lei... Cosa, fuori dalla mia porta? Quindi lei spara contro la porta, giocando sul fatto che la pallottola 38 special corazzata perfora la porta, sì. E quindi lo ferisce. Guardi, non sono contenta, però è il ragionamento che io non faccio, la sto giudicando, le faccio domande. Va bene, mi sembra. Guardi, meglio un cattivo processo che un bel funerale, ecco. Mi sembra una posizione rispettabile. Mario. Sì, pronto? Sì. La sto ascoltando, certo. No, niente, io volevo dire che stanno dicendo, compreso il giudice che ha parlato poco fa, lì, che ha scritto un sacco di libri, un sacco di sciocchezze. Vabbè, la sta ascoltando, sì, può ribattere se lei non è d'accordo, dica. No, no, non è che non sono d'accordo, bisogna dire le cose come sono. Le leggi in Italia sono queste, che lei non può sparare quando vuole. Cioè, nel senso che quello del signore ha detto che se uno entra in casa lui gli spara, assolutamente, è vietato. No, no, però scusi, il magistrato ha detto bisogna prima accertarsi, chiedere della persona, è l'estrema razio sparare su un'arma, quando uno vede in serio pericolo la propria incolumità, se no non è la signora che spara contro la porta, contro l'umore, è chiaro che non può, potrebbe essere un vicino ubriaco che passa gli avanti, potrebbe essere un poveretto che sta pomiciando con la vicina sul corrimano delle scale, può essere qualunque cosa, dico. No, no, io le dirò di più, io faccio la guardia giurata. Allora, mi dica. Quindi ascolti un attimo, io come guardia giurata ho una pistola che non posso usare assolutamente, cioè la difesa deve essere paragonata all'offesa. E questo cioè, io per poter sparare con la mia pistola devo aspettare prima che l'individuo che ho davanti mi spari, la legge italiana è così. Ma non è sufficiente che tiri fuori una pistola e lo minacci con una pistola? Sì, ma non posso sparare. Se uno, le punta un'arma addosso, lei non può... No, assolutamente, lei si informa, la legge italiana è sbagliata, ma è così. No. Parecchi miei colleghi sono andati davanti a un giudice per eccesso di legittima difesa, perché se il tizio che ho davanti non mi spara, io non posso rispondere al fuoco. Cioè non posso sparare per primo, perché allora, dopo ammazzo vado nelle rogne. Resti lì. Dottor Edoardo Mori, rispetto a quello che dice la guardia giurata sul rischio che dicevamo all'inizio noi, sul rischio dell'eccesso di legittima difesa, non è così scontato che uno che spara a un malvivente a casa propria e poi la passi liscia. No, quelle sono le stupidaggini che insegnano ai corsi per le guardie giurate. Ah, quando uno sta davanti a un'arma... Abbiamo due opinioni molto diverse. Bene, no, guardi, no, scusi, ho fatto a migliaia di processi. Io ho fatto solo penale in tutta la vita. Ho detto, devo sempre valutare la situazione di rischio. È chiaro che quando uno viene con l'arma puntata davanti, il rischio è al 100%. Non c'è mai un giudice che abbia... Quindi può sparare tranquillamente. Non c'è mai stato un giudice che abbia condannato in quella situazione. Salvo quel caso, che purtroppo è frequente, in cui arriva il rapinatore, fa la rapina, si gira per andarsene e l'orefice gli spara alla schiena. È chiaro che in quel caso, sparandogli alla schiena, in quel momento la necessità di difendersi è diminuita. Perché non c'è più il pericolo di vita. È un atto di giustizia autonoma in quel caso. Ma quando uno cioè, davanti a una persona con l'arma in mano me la punta contro, se faccio in tempo a sparare, che non è facile perché rischio la pelle, in quel caso è meglio stare tranquilli, in quel caso non c'è tribunale italiano che abbia mai condannato una persona. E nel caso della signora che dice che spara a vista sulla porta... C'ha il posto assicurato in galera. Sì, tra l'altro lei non è nemmeno autorizzata a sparare. No, quello non è autorizzato a sparare perché potrebbe essere il vicino che gli viene a chiedere per piacere di abbassare la televisione. Ecco, quindi è assolutamente... quando si spara bisogna sapere che cosa si spara e perché si spara. Allora, vuoi sparare alla cieca. Costruiamo diciamo, il teatro possibile. Si sente rumore in casa. Si ha l'arma, uno ha pieno diritto di prenderla in mano e impugnarla. Mi corregga se sbaglio. Sì. Si fa naturalmente del rumore, si avverte la polizia, si fa di tutto. Persiste l'intrusione in casa. A quel punto uno aspetta con l'arma che accada qualcosa. Ecco, diciamo una cosa, perché ci sono degli scenari assolutamente inverosimili. Diciamo che vi sono l'assalto al furgone portavalori, in cui sono squadra di gente militarizzata, quasi paramilitare, che è pronta tutto e lì. E li sparano. Discute, c'è veramente lo scontro a fuoco. Qualunque ladro che entra in casa... Se sente la minima cosa, scappa di corsa, non c'è nessuno ladro tanto imbecille da affrontare il padrone di casa, salvo che sia venuto per fare una rapina. Ecco, le rapine nelle ville, gli ultimi episodi, ecco, sono persone anche militarizzate, perché molte volte sono persone che vanno con armi pesanti, si trovano... Ecco, se uno va per fare la rapina, entra nella casa già con il modo violento, oppure appena entra, comincia a fare rumore, lui a cercare di impaurire chi è in casa, per cui... le situazioni sono sempre molto più chiare, non sono così misteriose come si prospetta tanta gente. Per quello che conviene sempre, io ho sempre consigliato di tenere il primo colpo a salve. che è la cosa migliore. Una cartuccia salve come primo colpo, che si può sparare anche contro la persona, che se si deve sparare da vicino fa già sconvolge già talmente col fumo negli occhi e la polvere negli occhi che l'altro rimane accecato, che però garantisce da ogni conseguenza penale. Quindi sparare un colpo a salve. A salve. O anche in aria, voglio dire, ma in aria uno si rovina il soffitto magari inutilmente solo perché ha sentito passare un gatto. Quindi è sempre meglio un colpo a salve. Poi dopo il 999 dei ladri stanno già battendo il record dei 100 metri. Quindi la scacciacani, diciamo... La scacciacani già risolve il 99% dei problemi. Uno si potrebbe tenere dei petardi di Capodanno già a casa Qualunque cosa, guardi, anche il registratore con sopra registrato la baiare di un cane feroce è più che sufficiente. Fermiamoci un istante, diamo le informazioni del traffico, vediamo che siamo arrivati a scegliere una maniera deterrente per risolvere alcuni casi, ma vedo che gli ascoltatori armati insistono nel dire che prima bisogna sparare, poi magari sparare in aria, perché quello è il vero segreto. Prima sparare per colpire, poi sparare in aria, cioè come insegnano al servizio militare, ma me nessuno ha mai insegnato una cosa del genere. Melog, la realtà condivisa. .800240024, come ci si comporta con una pistola in casa. Vincenzo. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Un saluto a Giudice Mori, che è una pietra miliare nel campo delle armi. Allora, lei cosa ha da aggiungere? Io sono un istruttore di tiro dell'UTS e vorrei dire delle cose che farebbero cascare questi castelli di carta che hanno fatto tutte queste telefonate. Allora, innanzitutto uno prende un porto d'armi sportivo per lo scopo sportivo, poi c'è chi deve, come in queste telefonate, per la difesa. Io dico una cosa: uno, quel porto d'armi non è un porto d'armi, ma è un trasporto d'arma, cioè l'arma non è che uno la prende e la porta a giro per tutti i poligoni come ti pare. Uno è da dire, è un trasporto, in una valigetta, le munizioni o nel cofano o nel bauletto, separate, l'arma smonta, e questa è la prima cosa da dire. Però quando c'è la casa ci può fare quel che vuole. Benissimo, come ha detto il giudice, hai ragione. Lo dico, questi signori hanno mai provato a sparare senza cuffie in un'abitazione? Cioè ci sta che rimarrebbero storditi dal loro stesso sparo. Hanno comprato giocattolini che non è che sono proprio scacciacani, perché appunto, in un appartamento una 38 Special fa fischiare l'orecchio. In bomba, bravissimo, quindi ti può stonare come la flashbang che si usa nelle operazioni di pulizia stanze dell'esercito, possiamo dire, no? Quindi rimani stato da solo. Seconda cosa, un tiro notturno non l'hanno mai fatto, sanno cosa vuol dire sparare di notte, sanno dove sono indirizzate gli organi di mira. Terza cosa, ma me l'ha detto il signore, lo sanno che questi calibri, queste case moderne sono fatte di foratelle da 8 centimetri, che se uno non chiappa quello che deve chiappare va all'appartamento di fronte, ammazza un bimbo, certo, ammazza qualcuno. In un appartamento medio italiano, certo, una 38 Special va a casa del vicino, mamma mia, e passa anche tre appartamenti passa. Appunto, queste cose sono cose che devono sapere, cioè chi li dà a porto d'armi? Quando io faccio un corso, queste cose le metto subito sul piatto. Anche se spari sul soffitto, una casa come ci hanno isolato le case oggi, se lo becca chi sta sopra. Ci sta molto probabilmente di sì, come molto probabilmente di no, però è una cosa che io non proverei. Poi ci sono i rimbalzi. Cioè, io dico una cosa, come ha detto il giudice Mori, chi ce l'ha metta colpi a salve. Io lo consiglio anche alle guardie giurate quando faccio corsi, specialmente in banca, perché se io vengo da di dietro con l'acciolo della pistola ti strozzo, mi voglio rubare la pistola e magari spararti e scappare, io so che primo colpo a salve, io mi butto a terra, so che mi ha sparato un colpo a salve, lui non lo può sapere, scappa, mi prende la pistola e scappa, però la vita salva, può essere un piccolo deterrente. Anche per le abitazioni fare uguale, può stare molto attento a sparare in aria, perché un colpo in aria ha una traiettoria molto lunga e come va su poi va giù, non dico che può essere letale, ma se va un occhio a qualcuno bene non gli fa. Quindi secondo me avere più cognizione di cosa ci sta a mano, fare un po' più di pratica e piano piano forse si diventerà, ma non serve a nulla secondo me. A casa mia mi hanno sempre insegnato sin da piccolo con le armi non si gioca, infatti bravo, non mi regalavano mai armi giocattole, questo mi ha creato grandi problemi. Walter, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. La chiamo da Torino, io vivo in una zona un po' fuori di Torino e quando ero giovane, ho 18 anni circa, abitavo in una casa che aveva un parco e nottetempo il cane mi ha avvertito che c'erano appunto delle persone dentro il parco, e io, avendo la pistola di buon'anima di mio padre, che era una guardia giurata, ho sparato a... Che pistola era? Questa era una 7.65 Beretta, quindi un calibro abbastanza piccolo, se sì, vogliamo. Oggi sì. Oggi sì. Devo essere sincero, io oggi ho il porto d'armi per difesa personale, perché sono stato vittima di... Comunque, una volta sparò contro delle persone? No, non le ho viste, però ho sparato a altezza d'uomo nella notte dentro il parco, ho sentito che scappavano anche, eccetera. Io devo essere sincero, oggi come oggi non lo rifarei, perché chiaramente è un po' l'incoscienza dell'età, eccetera, però le devo anche dire che io in casa sono armato, naturalmente, mi hanno bruciato anche due macchine, io faccio politica, quindi mi occupo di politica, mi hanno bruciato due auto, eccetera, quindi ho avuto minacce, eccetera. Io consiglierei a tutti... Oggi con cosa gira, però? Io adesso come adesso non giro armato, poche volte giro armato, perché... E quelle poche volte cosa si porta dietro? Non più il vecchio catenaccio di suo nonno, penso. No, ho una 357 Magnum e ho una Colt 45. Cioè, due calibri per sparare agli elefanti, praticamente. Sì. Cioè, però consiglierei a tutti... Cioè, ha dei calibri, se prende un uomo a una mano, gli stacca un braccio. Quindi sono armi per uccidere, non per... Certamente, però in casa l'arma, la 357, che è un revolver, che consiglio a chi vuole difendersi. Che ha anche buoni polsi, perché è un'arma che non è facile da maneggiare. No, io la consiglio però di caricarla. Io ho preso delle cartucce di plastica, sparano dei colpi di plastica che non uccidono, fanno molto male, però non uccidono. Ah, questa è una cosa interessante, sì, ho capito. Sì, sono quelle che si usano, diciamo, per le rivolte, certe polizie le usano per fermare le persone. Si trovano in armeria normalmente, sono dei calibri 38, perché quella pistola lei spara il calibro 38. Però è di plastica. Io le prime tre cartucce le metto di plastica e le altre le metto... Se non capisco, le altre due arrivano quelle vere. Fermiamoci un attimo. Edoardo Mori, allora, dottor Mori, vediamo di concludere. Abbiamo avuto ancora altri elementi. La cartuccia di plastica, le armi di grosso calibro, una 45, una 357 Magnum. Sono armi che chi le porta in tasca sa che non è che fanno il solletico. Sì, sono anche armi esagerate. C'è un po' la moda delle persone, tra l'altro, che se ne intendono meno, di andare a comprare armi potentissime, che poi sono le più difficili da usare. Io personalmente, che non, raramente sono andato armato, solo qualche volta in viaggio, ma ho sempre usato una piccola 22 che si scambia con un portachiavi, perché è più che sufficiente per se uno non è inseguito dalla banda della mafia o della CIA. E quindi, comunque, l'avevo già anticipato, quando si spara è sempre a una persona, è sempre l'estrema razio, e si può sparare solo se non vi è altro da fare per salvarsi. E poi si è tranquilli. Si è tranquilli che non si commette nessun errore. I giudici spesso sbagliano, sa perché? Noi abbiamo un diritto in cui la valutazione della pericolosità è affidata a un giudice, il quale, poveretto, magari non ha mai visto una pistola, ha sempre vissuto tranquillamente seduto in una bella poltrona dietro la scrivania, e chiaramente non sa dare questi giudizi. Per sapere cosa bisogna fare in certe situazioni bisognerebbe chiamare un esperto di arti marziali, di combattimento ravvicinato, della polizia, e potrebbe dare un giudizio oggettivo. In Germania, io vedo che è un pubblico molto esperto, già mi hanno scritto che la 45 ACP in effetti è un calibro molto vetusto, è molto meglio una 9 blindata, dice, vabbè. Sì, ma sono stupidaggini, perché appunto uno non deve fare il combattimento contro le bande armate. Non è lo sbarco, anzi, ormai... Ecco, un povero Cristo che anche lui ci tiene alla vita, anzi ci tiene estremamente. E quindi... Di solito, io per esempio ho sempre consigliato, ci sono per il revolver quelle belle cartucce che si a pallini che si usano per sparare ai serpenti in America, e quella è la difesa migliore. Come diceva il nostro ascoltatore, le cartucce di plastica, se no. Sì, oppure anche ci sono i piccoli pallini, no? Se uccidono un cobra, per esempio, e che da vicino distruggono la personalità di chi si sente arrivare addosso 150 pallini. Sì, si blocca assolutamente, uno è tranquillo che quello non starà mai a rispondere. Quindi usare un revolver con delle cartucce a pallini che si usano per tirare serpenti. Sì, o almeno il primo e il secondo colpo. Se almeno uno non vuole... Fanno poco rumore, che come giustamente diceva il tecnico di prima, in casa è assolutamente assordante e si rimane con c'è da trovarsi con sangue dentro le orecchie. Ecco, poi considerare anche che se si sta in un appartamento, sparare con calibro come quelli che ha detto il nostro ascoltatore significa demolire le pareti proprie e dei vicini. Si fanno dei danni notevoli e si può arrivare anche se una sola parete di mattoni si arriva anche dall'altra parte. Sentiamo Giovanni un secondo, in conclusione. Giovanni. Sì, buongiorno. Velocemente, c'è un minuto. Velocemente, tre anni fa mi sono trovato faccia a faccia con un ladro che mi stava entrando in casa. Sì. In quel momento io tenevo nel cassetto solo ed esclusivamente una scacciacani, come ha detto il giudice Mori. E cosa ha fatto? Non sono neanche riuscito a sparare, l'adrenalina mi ha bloccato tutto. Io ora ho le armi, ma me le tengo lontane da casa. Non siamo dei Rambo, non siamo dei killer. Le armi sono pericolose per noi e per chi amiamo. Grazie Giovanni, grazie Edoardo Mori, grazie Fabrizio Intonti e ai Rocchetti.